trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio. Grazie Antonio, buonasera a te. Allora, oggi è una puntata, come dire, doveva essere una puntata un po' tongue in cheek, come dicono gli inglesi, un po' scherzosa, un po' informale, dovevamo farci due risate dopo alcune puntate forse un po' troppo seriose. Però insomma, cercando di prepararla questa puntata, cercando di chiamare gli ospiti, mi sono reso conto che il tema era forse un pochino più spinoso del previsto. Vi dico solo che insomma avere gli ospiti in una trasmissione dedicata ai nerd e ai geek, perché di questo parliamo, non è stato facilissimo, forse perché qualcuno si è sentito chiamato in causa e l'autoironia evidentemente non è proprio una merce molto facile da trovare in questo magico mondo. Guarda che sono offese, cioè in realtà i due termini che tu usi e che hai usato per intitolare questa puntata sono veramente delle offese. Allora sì, qualcuno le può anche percepire così, però quando tu vuoi coinvolgere qualcuno in una trasmissione per parlare di qualcosa, mica per forza mi sto rivolgendo a loro. Io ho una mia teoria, secondo me una piccola percentuale di nerdaggine o di geekaggine, di nerdi ce l'abbiamo bene o male tutti, che le hanno smanettato in questi ultimi anni con internet, perché sarebbe quasi da preoccuparsi, no, se fossimo degli algidi rappresentanti della dipende vita da reale. Cosa intendi. Vabbè, per insomma, nerd siamo sempre lì, siamo sempre lì. Meglio se proviamo a cominciare la puntata, vediamo cosa viene fuori. Situation is this: someone calls you the big N or the big G. Ever sat around and wondered, do I really look like a nerd? Do I really smell like a geek? These are important questions for any young man, and on a rare occasions woman, to ask themselves. Now there are some very important things to consider when differentiating between these two groups. One is that the two are usually male. First, let's examine their clothing. A classic nerd would have glasses and pocket protector. The modern nerd has evolved to the point of blending in with society. Glasses are still customary, and their shirts have become video game themed, but to really recognize one, you must pay attention to their gadgets. Carrying several different varieties at one time, a dead giveaway is an MP3 player without music, just podcasts about computers. Ecco, allora dovremmo avere in linea Leo Sorge, che è un giornalista, scrittore, divulgatore tecnologico, esperto di tecnologia, di scienza, anche di fantascienza. Insomma, Leo, in quasi tutte le tue foto pubblicate in internet porti un paio di occhiali un po' sospetti. Non sarai mica anche tu un pochino geek, un pochino, anzi si dice geek. Geek è un pochino, un ex nerd, Leo? No, buonasera a tutti, ciao Leo. Antonio. Ciao Daniela, sono ufficialmente un nerd fin da piccolo, con quelle vetrate poi non potrebbe essere altrimenti, le vetrate le tolgo solo in due occasioni, una delle quali è per fare sport, l'altra me la tengo per me, e quindi buonasera a tutti gli ascoltatori, sono lieto di far parte di questa trasmissione, non sapevo di questi risvolti che hai detto tu Antonio, ma io rivendico il fatto di essere stato sempre un secchione. Ma stiamo scherzando. Allora, la cosa simpatica di questa telefonata con te è che ogni tanto scatta un beep che non mi preoccupa per una volta, in quanto dà proprio questo clima da nerd a nerd, da geek a geek, che si parla su una tecnologia traballante e autoreferenziale, che la tecnologia deve comunicare il fatto di esistere. Con questo beep ogni tanto lo ricordiamo. Allora, nella sinossi di presentazione di questa puntata che abbiamo pubblicato sul blog di Proxy Bar, abbiamo azzardato un'ipotesi un po' fantascientifica e come esperto di fantascienza magari potrebbe piacerti, e cioè, negli ormai lontani anni 90, anni 80, nel disordine dei loro antri tecnologici, gli uomini e le poche donne che chiamavamo dispregiativamente nerd stavano in realtà preparando la loro rivincita, che non c'ha niente a che fare con quella descritta nel famoso film. In quegli anni, infatti, i nerd costruivano un mondo in cui i loro figli, i geek, avrebbero dettato legge, un mondo governato da una rete che i loro pargoli avrebbero saputo usare al meglio, creando un digital divide che li avrebbe distinti da una massa passiva e conformista, ancora schiava della vecchia TV. A differenza dei loro padri, insomma, i geek sarebbero stati non solo socialmente accettati, ma addirittura alla moda, addirittura trendsetter. È andata così, Leo? Dunque, è molto molto bella la storia, io me la sono letta, come hai visto l'ho anche scopiazzata per un post su più blog. Sì, diciamo, non è detto che, cioè è andata assolutamente così, nel senso che comunque sia i nerd hanno perpetrato una vendetta ancora peggiore, cioè perché i figli dei non nerd per essere accettati devono essere geek. È vero. Si è passati attraverso una fase nella quale si è fatto cattivo uso di un altro termine, hacker. Che è da smanettone è diventato, in questo caso proprio penso a causa della fantascienza, è diventato il cattivo. Sì, però c'è stata anche una fase in cui era il buono, ti ricordi il film War Games? In cui è assolutamente un termine positivo, hacker, e siccome ci vuole una competenza tecnica di mezzo io non mi riconosco in questo. Vogliamo parlare dei lamer allora? Ossia quelli che si atteggiano a fare gli hacker usando delle tecnologie ridicole. Poi c'è tutta la terminologia eccetera, però in teoria l'hacker è colui che riesce a riparare un qualunque oggetto senza avere una competenza specifica, un po' un pasticcione. E tant'è che in America ci sono stati, e questo è stato il grande successo degli anni 90, tanti libri su how to hack something, come riparare dalla macchina da cucire alla macchina da scrivere, all'automobile, e c'è tutta una serie di libri che poi sono diventati in realtà altre collane anche più famose. Però torniamo al nerd. Il nerd è molto interessante perché nerd è un termine recente di costruzione, mentre bene o male geek esisteva, ha una vecchia radice, hacker addirittura è derivato di hack, quindi già esisteva. Nerd nasce negli anni 50 sì. Nasce in quegli anni nei quali nelle scuole americane improvvisamente i ragazzi di 16 anni cominciano a mettere i jeans che prima mettevano soltanto gli operai. Quindi in realtà nerd porta porta con sé un connotato molto interessante e sociale. Adesso non è detto che in 10 anni in America sia successo solo questo, ovviamente. Però per esempio, per rifarci alla tua introduzione, in quei 10 anni in America, anzi mi pare nel 1956, il padre di Al Gore, senatore, all'epoca il padre stesso, sì. Interallacciò le autostrade dell'epoca. Sì. E quindi è confini, come anche confini anche militari, se non sempre. Sì, sì. Non c'è, ragazzi, scordiamoci che ci siano i soldi per fare le cose commercialmente che qualcuno investa senza fare queste cose. Però ripeto, nerd che nasce nerd, sì. Nasce nei dizionari con la U e non con la E, sì. È questo termine nato in quegli anni per far vedere quei ragazzini sbruto tutti pieni di brufoli con la stessa camicetta da 4 anni, macchie comprese, che come dire, io che ero comunque facevo parte del club ma non mi rendevo conto, andavo a prendere in giro dicendogli da dietro ingegneria la parola preservativo, ecco, che li eccitava moltissimo, e vedendo esatto. Questo tipo di cosa che il nerd apprezzava moltissimo. Senti Leo, io vorrei condurre questa trasmissione con una specie di gioco sotto pelle, e sarebbe questo: ogni tanto faccio delle domande serie, ogni tanto però farò delle domande civetta a bruciapelo e mi dovrete rispondere. Per esempio adesso vorrei chiedere subito a Daniela se lei ha mai posseduto una spada laser. No. Ecco, va bene, allora questo è la tiene fuori dalla prima scrematura. Poi anche a te, Leone, farò altre di questo tipo. Sì. Andiamo pure avanti. Differenze tra nerd e geek, secondo te? Allora, i dizionari danno delle definizioni molto simili. Quindi non c'è di che preoccuparsi, c'è sempre il doppio senso, sì. Detto proprio con termine tecnico anche psicoterapeutico, il coglionazzo, sì. Da un lato, sì, siamo in fascia protetta, ti ricordo, sì, però è anche termine, come dire, medico, e dall'altra parte la persona che in qualche modo ha un sapere tecnico molto specifico, sì. Quindi poi diciamo, se vai a vedere i dizionari danno per tutte e due queste definizioni, mentre nel caso di hacker non c'è la definizione di tonto, di fessacchiotto, visto che siamo in fascia professionale. Leo, scusa, hai mai risolto il cubo di Rubik? Sì. Ecco, benissimo. Hai mai vinto a Trivial Pursuit più di 10 volte? No, più di 10 credo basta, di no. Basta, no, torniamo ai discorsi seri. Sì. Poi ti dico dove sto prendendo tutte queste cose, perché c'è un test per vedere quanto uno è geek oppure no. Senti, tu sei, come diceva Gandhi, sei un esperto di blogger, diciamo, e vorrei che tu mi dicessi se i blogger, soprattutto quelli di oggi, proprio quelli del web 2.0, secondo te sono più nerd o più geek? Allora, nell'uno o nell'altro. Il blogger è di suo una persona che si esprime, che cerca in qualche modo una nuova definizione di formazione, informazione ed esternazione, nella quale però, come dire, l'aspetto egocentrico è quello centrale. Io penso questo, io dico questo, io ho scoperto che la notizia parte quando la si scopre. Che poi, per una serie di circostanze, ovviamente ci debbano fare dei meccanismi promozionali, delle classifiche, che all'interno delle classifiche vengano a sembrare primi, vengano primi quelli che conoscono i mezzi tecnici per andare in alto nelle classifiche, che sono classifiche informatiche, quello è un altro fatto, è la pubblicità, è la faccia dei blog. Se posso dirla più precisamente, se ho un attimo di tempo, in Italia soprattutto si è generato questo meccanismo per il quale l'Italia, che non è assolutamente un paese tecnologico, è un paese nel quale la tecnologia non viene prodotta e non viene utilizzata, e viene utilizzata anzi male, è il paese che nelle statistiche ha il maggior numero, la maggior percentuale di blog tecnologici nelle classifiche, alti in classifiche. È evidente che c'è uno scollamento tra paese reale, come direbbero i politici, e intelligenza, quindi l'intelligenza ha trovato il modo di auto tirarsi su, e ci sono parecchi blog tecnologici che fanno pensare in classifica, e che fa pensare che ci siano molti geek o molti nerd. Leo, hai mai indossato due orologi contemporaneamente per tenere traccia dei fusi orari differenti? Mai. Io vado senza orologio da 15 anni almeno. Daniela? Anch'io, mi associo. Senza orologi. Va bene. Allora, io volevo farti una domanda a proposito di questi dispositivi portatili multiuso, multifunzione, che molti stanno decidendo di comprare in questi giorni prima di Natale, magari sperando di non pagare poi il prezzo più alto che tipicamente questi oggetti avranno a Natale. Questi sono oggetti che mandano degli indizi importanti per capire se uno è un nerd oppure no. Per esempio, se uno ha semplicemente uno smartphone, è uno che semplicemente vuole aggiungere funzionalità al proprio telefono. Se uno ha uno smart media player, tipo l'iPod Touch, che si collega anche a internet, è comunque uno che vuole avere sempre con sé soprattutto la sua collezione, no, di video e audio. Se uno vuole, ha un palmtop, un palmare, è un pochino forse più nerd, più geek, però fondamentalmente uno che vuole avere le funzionalità di Office anche in condizioni di mobilità. Parlami di quelli che, come me, comprano il Nokia N800 internet tablet. Dunque, è un discorso molto interessante. Io vorrei sapere, anche in questo caso, diciamo, c'è una situazione a fasce, ovvero sia, quanti sono secondo te quelli che lo comprano per far vedere che hanno la cosa più importante e non per le funzionalità? Cioè, è chiaro che la tecnologia, e anche qui ci vorrebbe un termine tecnico del quale faremo a meno vista la fascia protetta, è chiaro che la tecnologia praticamente permette di avere oggetti più o meno piccoli e molto costosi, e quindi far vedere che c'è il potere. Una volta era l'automobile, poi gli orologi, adesso, diciamo, molte volte è l'oggetto tecnologico. Io credo che ci sia una vastissima fascia, almeno il 30% di persone, per essere buoni, che comprano questi oggetti soltanto per far vedere. Però non bisogna mai dimenticare che c'è una grande fascia di utenti che trovano utili le funzionalità aggiuntive che scelgono con grande studio. Io ti ho visto giocherellare con quelle dita che hai sugli oggettini che usi, ed effettivamente sono assolutamente convinto che nel tuo caso tu faccia un buon uso. Ti ringrazio. È stata una scelta comunque sofferta, perché poi alla fine si tratta di avere due oggetti tecnologici, il telefono e l'internet tablet. Comunque sì, forse hai ragione, quello non è un indice di nerditudine. Hai mai provato tu, Leo, a fare il test Mensa, quel test di intelligenza? Sì. Ecco, benissimo. Ok, questo ti fa guadagnare nel test circa 25 punti, poi alla fine vedremo. Perché stavo bambino, devo dire. Va bene, senti, io ti ringrazio per aver introdotto l'argomento, che poi approfondiremo con un'altra persona sospetta, tra virgolette. Però vorrei anche con te così annunciare questo importante evento che si svolgerà a Roma tra il 6 e il 9 dicembre a Roma, al Palazzo dei Congressi, vale a dire Più Blog, la rassegna di incontri tra bloggers, sui nuovi media, con i nuovi media nell'ambito della fiera della piccola media editoria più libri. Tu sei tra gli organizzatori, dici esattamente cosa succederà in questa 4 giorni romana. Sì, Marina Bellini ed io abbiamo fatto per il secondo anno questo evento che si chiama quest'anno Spazio Blog by Splinter, perché c'è uno sponsor ufficiale della manifestazione che si propone di mostrare cosa è successo nel mondo della blogosfera fotografando la situazione puntuale, quindi di volta in volta. L'anno scorso era una situazione ancora tecnicamente in divenire, quindi c'era interesse per lo sviluppo delle piattaforme. Durante tutto il 2007 si è assistito, anche alla fine del 2006, si è assistito ad un ingresso in forze del mondo reale nella blogosfera, ad un'uscita dei personaggi che prima erano solo virtuali, anche in occasioni più o meno pubbliche. E quindi questo noi fotograferemo, e per 3 giorni i classici argomenti che riguardano la fusione tra blog e media, informazione, giornalismo, anche diritto, politica, psicologia, visto, politica sempre, anzi sulla politica ci sarebbe da fare proprio un discorsone, però perché la politica è il luogo d'elezione e il blog è il luogo d'elezione per la politica, perché essendo un'attività sociale comunque va in quella direzione, non necessariamente una partitica, ma comunque una gestione di una repubblica, di un qualcosa. Comunque in questi giorni mostreremo come appunto si è evoluta la blogosfera, e avremo quindi grossi personaggi tra di noi, tra i quali per esempio Lino Banfi, no, lo ripeto. Dell'acqua, tutta una serie di blogger che vecchi e nuovi, perché Alberto è un recentissimo blogger, che stanno trovando appunto importanza e nuovi canali, nuove forme di espressione sul blog. E un'ultima cosa, siccome l'anno scorso è stato l'anno dei bar camp anche in Italia, cioè quelle manifestazioni autogestite, auto-organizzate, come se fossero con le persone che si comportano come se fossero dei dispositivi di rete, autoaggreganti, e ne abbiamo organizzato uno anche noi che si chiama Più Blog Camp, l'ultimo giorno nel quale parleremo delle varie esperienze dei bar camp italiani. Beh, benissimo, insomma si prepara sicuramente un periodo di grande fermento, di grandi chiacchiere, tra l'altro tutto questo anche fruibile attraverso la rete, non sarà fondamentale essere presenti direttamente. Io credo, Leo, di doverti a questo punto salutare, perché come si dice in radio il tempo è tiranno, poi abbiamo anche altri ospiti. Ti ringraziamo e ci vediamo tutti quanti allora al a Più Blog e al Più Blog Camp. Certo, potevate trovare un nome un po' più facile da pronunciare, però forse questo è più il mio limite. Noi nerd non abbiamo di questi problemi. No, infatti. Va bene, grazie. Ciao, Leo. Grazie a te, ciao Leo. Thank you. person strive for acceptance, often trying to hide their nerdage through purchasing consumer products. But if you look closely, you can see the hidden clues. In contrast, geeks revel in their interests, commonly immersing themselves in related objects, avoiding the dreaded norm. Each one has different pros and cons in their lives. Nerds are useful to society. Women... I nerd servono alla società, forse i geek magari no. Comunque abbiamo in linea Carlo Becchi, che è creatore e conduttore di un bellissimo podcast di divulgazione tecnologica, direi, che si chiama Tecnica Arcana. Buonasera Carlo. Buonasera Antonio, buonasera Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori di Proxy Bar. Allora, noi siamo un po' parenti con Carlo Becchi, perché anche io sono podcaster, sai che appunto i podcaster sono creatori di contenuti, ascoltatori dei contenuti altrui, si scambiano idee su forum, addirittura su newsgroup, e più si entra. No, in questi... Ma come un blogger, sì, lo fa con i blog, cambiate soltanto lo strumento, dai, la comunità è uguale. Ho rilevato una certa percentuale di nerditudine in questo mondo, Daniela, non in modo così inquietante. Non so Carlo come la pensa sul tema nerd e podcast. Ma secondo me il podcast, sia dal punto di vista dell'ascolto, che è senz'altro più difficile della visione di un semplice blog, per forza di cose è intrinsecamente permeato di nerditudine. Comunque, cosa che francamente mi inorgoglisce, mi ha stupito quel tuo incipit iniziale, esatto, di questa vergogna o comunque questo disagio a essere anche solo partecipi di una trasmissione che parla di geek e nerd. Io sinceramente penso di essere un nerd che ormai si veste da geek, che è una cosa molto semplice, basta togliere la protezione per le penne del taschino di cui si faceva menzione nella tua introduzione in inglese che hai mandato e uscire nel mondo e... Scusa Carlo, ma tu hai mai comprato per conto tuo, per tuo interesse, libri matematici? No, matematici no. Vedi? Ecco, vedi, questo mi conforta. Io sto sfogliando in realtà, no? Questa serie di domandine chiave tratte da un test che si trova su internet. Adesso posso anche dire esattamente l'indirizzo, se lo trovo. Sì, vabbè, l'indirizzo è... Vediamo un po'. Fai un'altra domanda, intanto. Facciamo un altro, poi dopo lo ripesco. È la chiave scherzosa di questa puntata, che io ogni tanto faccio domande serie, ogni tanto però a bruciapelo faccio queste domande. Sì, ti stavo ascoltando, ecco. dalla mia macchina Linux, ovviamente, ecco, come ogni buon geek. Sì, inutile dire che l'N800 della Nokia, che mi sono procurato, funziona con una versione mobile di Linux. Certamente. È inutile dire che purtroppo è appena uscita la nuova versione, l'810, sì, che è anche una bellissima tastiera QWERTY. Sì, è molto nerd, però devo dire, in realtà è la stessa macchina, a parte la tastiera. Secondo me comunque è molto significativo tirare fuori il discorso dei cellulari, che è una cosa che abbiamo tutti, per cercare di identificare o differenziare il geek e il nerd. Secondo il mio parere il geek si compra lo smartphone, ci fa una foto e fa un post sul blog dicendo che l'ha comprato, se va bene fa anche una recensione. Il nerd lo spacca la sera stessa cercando di installargli Android di Google, di cui si parla in questi giorni, fallendo miseramente, quindi sì, certo, distruggendo oltre ogni possibilità di recupero. E questa è la sottile differenza, ecco, a mio avviso. Carlo, tutti noi adesso facciamo un giro tra me, te e Daniela, abbiamo comunque un episodio di vita da nerd da raccontare. Posso provare a raccontare il mio. Quando avevo lo Spectrum, ricordo che ho fatto vari tentativi di collegarlo ad un modem per riuscire a collegarmi a qualche BBS, che erano i servizi, diciamo così, telematici di allora, antesiniani di internet, eccetera. E ricordo, in quei giorni io capii una cosa, che la tecnologia non è affatto una cosa logica, ma è una cosa che risponde in modo ormonale, come gli va, nel senso che provai, no, a configurare questo modem per miliardi di volte una notte, praticamente una notte in cui non dormii. A un certo punto, dopo aver cambiato i vari codici ACE, perché allora si faceva in questo modo, riuscii a collegarmi. Con grandissima gioia dissi: da questo momento non toccherò mai più nulla di questo computer, di questa configurazione, sono sicuro che tutto si ripeterà con successo. E invece no. E invece no, dopo quel singolo tentativo che andò a buon fine, senza cambiare nulla, da quel momento i problemi si ripresentarono. E giunsi quindi alla conclusione che era la tecnologia che voleva mandarmi un messaggio, il tipo: è inutile che continui a provare, sono io che governo te. Non è un atteggiamento da nerd questo, perdonami. Hai qualche invece episodio tu da raccontare? No, io di episodi del genere non ne ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri che mi hanno evitato figure del genere o problemi del genere, però che la tecnologia sia una scienza senza spiegazioni è una cosa che ti insegnano da subito. Benissimo, perfetto. No, io purtroppo l'ho scoperto, anche non avendo fatto studi ingegneristici, cioè ce l'ho dovuto scoprire con le mie... No, ma io parlo di persone incontrate nelle BBS, non parlo di... Sì. Ma io dovevo ancora riuscire a collegarmi con le BBS. Carlo, hai da raccontare qualcosa tu? Ma ovviamente sì, più di uno. Ma se vogliamo proprio parlare di BBS, io ricordo con molto bene i primi vagiti dell'internet su larga scala in Italia, che era l'ormai scomparsa Video Online, se sì, ricordate. Sì, sì. E ricordo che davano un browser che era orribile, non mi si chiamava Tiber, una cosa del sì, genere. Una roba proprietaria. Sì, una cosa sviluppata oltretutto in Italia da loro, era angosciante. Allora c'era Windows 3.11 che non aveva l'accesso a internet perché mancava dello stack TCP, cioè del pezzo che collegava direttamente alla rete, oltre a non avere ovviamente un browser per visualizzare le pagine. Ma c'era già Netscape, che era eccezionale. E questo pezzo, questo blocchettino di software che mancava proprio per permettere al modem di ricevere questi dati, non era incluso e costava uno sproposito per i tempi. E invece nel dischetto di Video Online ce n'era uno che era eccezionale. Io la prima cosa, il mio primo contributo che è stato su internet è stato proprio uno script che prelevava lo stack da questo browser orribile e permetteva di utilizzarlo con un browser qualunque, quindi anche Netscape, e appunto poi era stato diffuso attraverso le BBS per i primi che si, non certo pionieri, perché pionierismo è un'altra cosa, ma le prime diffusioni di internet in larga scala. Ci avevo lavorato un po'. Carlo, da quanto sei connesso con la rete? E io sono, i miei primi vagiti con la rete nascono appunto con la famosa estate, credo del 1994, del numero verde di Video Online. Prima di partire per un intera estate c'era un numero verde di Video Online che non solo non si pagava l'abbonamento, era una sorta di test, c'erano sempre cose che giravano nei gruppi di discussione delle BBS, e questo numero verde non solo se non si pagava l'abbonamento, ma non si pagava neppure la tariffa urbana a tempo, la telefonata, certo. C'era la TUT a quei tempi? A quei tempi sì, c'era la TUT con i programmini che si facevano partire prima di collegare al browser e davano in tempo reale quanto i consumi, si stava spendendo, sì. Io sì, li avevo. Carlo, hai mai posseduto una penna con almeno 4 colori? Sì, altro che 4. Stai guadagnando punti, in questo momento hai scavalcato Leo Sorge che abbiamo sentito prima. Mentre andava la musica bellissima di Brad Meldau di poco fa, Daniela mi diceva, ma non è che esiste, Antonio, non è che ognuno di noi ha una percentuale di nerditudine. I nerd integrali esistono, io li ho visti, ma sì, come sono, Daniela? Ma Carlo, io penso che Carlo, avendo vissuto i miei stessi anni nelle BBS, li abbia incontrati anche lui. Sono persone che grugniscono quando ridono? Parlano poco, si esprimono male, è l'unico luogo in cui riescono a comunicare è esattamente una BBS, ossia nascosti dietro una tastiera. Prima di conoscere il professore Epifani non credevo che tra le caratteristiche, diciamo, dei nerd ci fosse quella di possedere un animale esotico. Poi sono stato a casa sua e ha tirato fuori due gechi multicolori e un serpente che poi mi ha fatto anche accarezzare. Carlo, tu possiedi per caso un voltmetro? No, però ho avuto un brivido perché io allevo lumache. Non sono esotiche, però. Ma no, non si sono esotiche, ma è abbastanza strana avere una vasca di pesci rossi piena di lumachine. Va bene. Allora, secondo te, Carlo, i nerd, adesso a parte tutti questi scherzi, certo, esistono veramente o sono delle figure retoriche di cui ha bisogno l'immaginario collettivo per giustificare fenomeni diffusi come la scarsa conoscenza della tecnologia? Te lo chiedo perché tu hai un podcast che fa divulgazione tecnologica. Ma io credo che come etichetta forse sia un po' troppo iperbolica, sia quella di nerd che quella di geek, indipendentemente dal fatto che non mi sembra non stiamo riuscendo a trovare una definizione precisa per i due termini. Credo che ci siano persone che vivono la tecnologia in modo diverso, la vivono in modo naturale, come se fosse un'estensione della propria vita, così come potrebbero vivere, non so, l'alimentazione o il bere o il guardare la televisione. Sì, ma questo non significa essere nerd. Essere nerd, secondo me, è qualcosa di diverso. Cioè, io ti posso raccontare la mia esperienza del 94, in cui arrivavamo in queste BBS ed eravamo delle prime persone più, cioè, non informatiche, che si scontravano con gli informatici, che erano veramente dei nerd. Carlo, hai mai saldato componenti elettronici? che cosa ne pensi di Elio e le storie tese, degli Schiantos, degli Squallor? Ti piacciono? A me moltissimo. A me moltissimo. Le storie tese sì, Schiantos e Squallor proprio no. Insomma, qualcosina. Forse ho messo tutti e tre in un unico calderone. I primi forse sono un po' più musicisti. A parte vedo dietro il vetro la regia che mi fa segni. Dice, beh, quelli sanno suonare veramente, sono d'accordo. Però c'è una cosa da dire su Elio e le storie tese, e che un po' li avvicina al mondo dei nerd. Sono molto amati dai ragazzi e pochissimo dalle ragazze, forse per quella famosa canzone sugli assorbenti, sui Novenia Pocket. Poi, Daniela? Sì. Non lo so, non li ascolto. Va bene, per chiudere io vorrei chiedere a Carlo di descriverci un po' meglio, vabbè, questo suo bellissimo progetto, come è nata l'idea di Tecnica Arcana, di questo podcast che è uno dei più popolari, più ascoltati, anche perché effettivamente sta aiutando parecchie persone a capire delle cose, diciamo così, a risolvere anche dei problemi. Tecnica Arcana nasce da un vecchio sito che avevo di tecnologia, principalmente hardware, che poi per una serie di motivi ho abbandonato, e avevo sempre pensato di realizzare qualcosa di diverso, tipo di che non si basasse esclusivamente sulle solite recensioni del web, che ormai erano presenti in maniera totale, anche in italiano, perché quando avevo iniziato erano rari i siti di tecnologia in italiano. E invece, appunto, poi è venuto fuori il movimento, l'idea del podcasting, il fatto di, appunto, andare direttamente a casa dell'ascoltatore con questa automazione data dal feed RSS, dagli aggregatori, tutte queste belle cose che conosciamo, delle quali voi avete già parlato due puntate fa, e allora ho detto facciamo il salto e proviamo a vedere cosa succede. Io non ne ero assolutamente sicuro, infatti nella prima puntata promettevo 5 episodi e poi si vedeva quello che sarebbe successo. Ora sono più di 50. È giusto porsi un limite, lo dico sempre da podcaster. Quando chiusi Pendo Deliri ci fu della gente che mi mandò dei messaggi funerei del tipo, ma come si spegne una voce? Come quando si spegne una radio. No, il podcast si paragona forse più ad una trasmissione che ha un inizio e una fine, un ciclo, no? Poi i progetti possono anche riprendere, ci sono Pendo Deliri è arrivato alla terza serie, magari ci sarà in futuro una quarta serie. Per il momento francamente no, perché in questo momento credo di aver detto abbastanza. Io ti ringrazio, Carlo, per la tua testimonianza. Continua ad ascoltarci, io continuo ad ascoltare Tecnica Arcana e ci sentiamo presto. Certo, ringrazio tutti voi e i nostri ascoltatori. Alla prossima. Grazie, ciao, Antonio, Carlo. Grazie Daniele. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thank you. Radio Imago. Ma dove sono? Mi sa che stanno parlando di noi. Ah, figurati. Nerds! Nerds! Nerds! Nerds! Forza, andiamo, Lewis. Antonio, una domanda per te. Hai mai indossato delle camicie con le maniche corte? Ah, vedi che anche tu hai spulciato. Ho spulciato, sì, ascoltando la musica. Io ho sempre detestato le camicie con le maniche corte e tuttora mi chiedo come facciano gli americani in ufficio andare in giro con queste camicie bianche, con quelle cravatte assurde che hanno loro, tipo Dilbert, no? Il personaggio di Scott Adams, che è un nerd, indiscutibilmente un nerd, e lui ha la camicia a maniche corte bianca. Va bene, dunque, il tema dei nerd l'abbiamo anche un po' chiosato con questa citazione del film La rivincita dei nerd. Abbiamo sentito poco fa un brano tratto da una scena in cui due nerd si rendevano conto di essere, come dire, loro malgrado, al centro dell'attenzione. Vedevo che stavi spulciando il programma di Più Blog, sì, di Area Blog by Splinter, di cui parlavamo prima con... Stavo dando un'occhiata al programma, in effetti è ricco di interessantissimi contenuti, incontri. Ti ho visto anche che parlerai. Ah sì, anche l'anno scorso mi avevano convocato per parlare di podcasting. Mm-hmm. Stavolta è nell'ambito di un incontro che si terrà giovedì 6 dicembre, sempre lì al Palazzo dei Congressi, alle ore 10, sul tema blog e media, marketing e informazione. Ci sono anche personaggi molto molto più importanti di me. Tra cui, per fare un esempio, c'è il Antonio Pascotto, che Mario dice Lupi, Mario Lupi, che è di Ad Maiora, no? È un esperto soprattutto di web marketing. Tommaso Tessarolo, grandissimo guru della Net TV, giornalisti come Pietro Tercagnoli del Mattino, insomma. Anche Andrea Mancia, no? Che è un esperto di blog e politica, questo blog che si chiama Tocqueville, che fa riferimento sicuramente a un'area di centrodestra. E molto molto interessante sia questo evento sia quelli successivi sulla politica. Ci saranno Adinolfi, Capezzone, Paolo Guzzanti, poi ci sarà un incredibile scontro tra blog e Second Life, moderato proprio da Leo Sorge, che abbiamo sentito prima. Penso che ci sentiremo delle belle. Per consultare il programma nella sua interezza andate sul sito www.piublog.it. A parte questo, sempre Splinter in questi giorni è molto attiva, perché ha un paio di eventi, no? Proprio domani c'è questa Splinter Night, che è un evento iniziato così un po' in sordina. Adesso ci sono già 261 blogger registrati. È un party gratuito che si terrà alle distillerie clandestine, zona Ostiense, che è un po' un quartiere proprio ormai simbolo del mondo dei blogger post-industriale, molto bello, io lo trovo fantastico, la zona di Testaccio. E si svolgerà domani, quindi 9 novembre, alle ore 20, in via di Libetta 13. E io purtroppo non ci potrò andare, però insomma magari qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe essere interessato. Facciamo un'altra piccola pausa e poi passiamo al guru di turno. Thank you. Bene, è arrivato il momento del guru di oggi. Ancora una volta utilizziamo le interviste della bravissima Livia Iacolare di Intruders TV, dove potete trovare anche il video di queste interviste, e mandiamo in onda quella che ha raccolto all'ultimo Venture Camp con Marco Palombi, che è fondatore e creatore di Splinder, la più importante piattaforma italiana di blogging. In questo momento Palombi però è impegnato anche in altri progetti interessanti, tra cui il First Generation Network insieme a Michele Appendino. Che cos'è il First Generation Network? È un'associazione composta da imprenditori italiani di prima generazione e da altre figure professionali che sono interessate a sviluppare la cultura e l'ecosistema imprenditoriale. Sto leggendo proprio dalla sinossi di questa intervista che ha pubblicato Livia. È un personaggio di grande energia, di grande imprenditorialità. Vale la pena sentire questa intervista solo per sentire il suo tono e il suo livello motivazionale. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Salve, benvenuti su Intruders TV Italia. Oggi sono al Venture Camp in compagnia di Marco Palombi. Ciao Marco. Parlaci un po' dei tuoi progetti. Tu sei famoso perché hai creato una delle più importanti piattaforme per il blogging, Splinder, che poi è stata. Parlaci adesso dei progetti che stai portando avanti in questo momento. Beh, adesso di fatto stiamo completando tutto quello che c'era da completare per dopo la posizione della possibilità da parte di Dada, del gruppo ICS, il software che si era comprato. E poi a tempo perso, quindi era non profit, sto anche lavorando a questa associazione di nuovi imprenditori che cerca di diffondere in Italia un modello di imprenditoria da quello che c'è oggi in Italia, come modello percepito. Un imprenditore che si è fatto da zero, sostanzialmente di prima generazione, sostanzialmente la sua famiglia alle spalle, questi insieme a una serie di imprenditori che ce l'hanno fatta, di ragazzi, non tanto ragazzi, diciamo, siamo a 40 anni, però che per dimostrare che a te c'è qualcuno che senza famiglia alle spalle, senza fare sempre le cose in maniera etica, facendo le cose in maniera è riuscito ad avere successo. L'obiettivo è quello di creare un modo e spiegare ai ragazzi più giovani, perché adesso stanno studiando, che c'è un'alternativa al posto fisso, c'è un'alternativa a piangersi addosso. Non è facile, anzi è molto complicato, però per poco ce l'ha fatto. Se avessi avuto questa opportunità quando ero all'università, forse avrei capito qualche cosa in più. Di progetti come questo, di eventi anzi come questo, come il Venture Camp, cosa pensi? Tu hai la prima volta che un evento simile viene realizzato in Italia, tra l'altro con la collaborazione di personaggi internazionali. Insomma, come hai vissuto questa esperienza per il Venture Camp? Questa è la prima volta che ci vengo, non so se è la prima volta che lo vedo. Questa cosa è venuta per la direzione di far vedere che ci sono due modi per approcciare la vita sostanzialmente. Aspettare che ti piove quello del cielo, e invece quello di rimboccarsi le maniche e cercare di fare qualche cosa nella tua vita, anche perché è vero che c'è una generazione imprenditoriale in Italia per cui sembra che è tutto bloccato, però è anche vero che la tecnologia sta cambiando talmente velocemente che proprio queste persone che rappresentano il potere in Italia, questa è la tecnologia, non la capiscono, quindi c'è spazio anche con pochi soldi e con molte idee per creare nuova imprenditoria. Chiaro che si parte da una situazione in Italia molto svantaggiata, per cui è più complicato in altri paesi fare questo, è più difficile per trovare qualcuno che ti compra, per esempio si può pagare addirittura dei finanzi, però la cosa sta cambiando e sono probabilmente delle iniziative come queste che possono aiutare, se vuoi, a diffondere questa cultura del fare da sé in qualche modo. Però fare da sé in maniera anche strutturata, cioè quello che sta cambiando è che è vero che in Italia siamo tanti imprenditori, però la generazione della rovere, ci sono tanti ci sono tanti tabaccai, pizzaioli e pasticceri, no? La nuova impresa che ha fatto la tecnologia, non dico che ci vuole la laurea, perché nel caso ormai non è tutto così, ma ci vuole persone che hanno la tecnologia, capiscono, capiscono i media, capiscono i mezzi di comunicazione, quindi è un modello un po' diverso in imprenditoria, e quando si dice appunto ci sono imprenditori italiani, è vero, però la nuova tecnologia fa sì che non ce ne siano abbastanza di quelli che creano il lavoro e questa iniziativa tendono a far capire che ci bisogna di questo tipo di imprenditori. Ti ringrazio per la tua disponibilità e ti faccio un grande bocca al lupo per la tua attività. Grazie a te, grazie, grazie mille. Allora Antonio, un'altra domandina fresca fresca per te. Sai qual è la differenza tra ottale e ottano? Assolutamente no, mi pregio di non saperlo. Okay. Anche il numero di ottano rimarrà, credo, per me sempre un mistero, così come si ricarica una macchina, una spillatrice, no? Io di solito frego quella dei colleghi finché quando finiscono le mie spillette e andrò avanti così per questa l'eternità. È pigritudine, non sì. È certo un'immagine. Invece per niente pigro il personaggio che abbiamo sentito poco fa, Marco Palombi, c'è poco da commentare. È stato, adesso penso che le interviste al Venture Camp siano finite, ce ne saranno altre sempre realizzate da Livia che manderemo in onda. Per chiudere un po', diciamo, fare un bilancio di questo evento, speriamo che ce ne sia un altro anche l'anno prossimo. Allora, io devo dirti una cosa, Daniela, prima di chiudere, non sono sicuro se giovedì potremo andare in onda, perché giovedì mi aspetta forse una giornata di accertamenti ospedalieri, niente di che, non vi preoccupate, però non sono sicuro, adesso lo vedrete dal sito se ci sarà la puntata giovedì prossimo. In ogni caso il bello di avere un sito fantastico come quello da te creato e mantenuto è appunto quello di sapere sempre tutto in tempo reale. A proposito di informazioni in tempo reale, bisogna aggiungere la URL del programma e del dominio. Ma ne stavo dimenticando. Dopo aver scherzato a lungo con questo test, diciamo subito l'indirizzo www.innergeek.us/italiano, perché è chiaramente stato tradotto in italiano anche con personaggi italiani, non credo per esempio che gli Schiantos fossero conosciuti no. Oltreoceano. Io ho fatto il test e sono risultato a metà strada tra geek e geek totale, che non è moltissimo, perché poi dopo c'è geek estremo, super geek eccetera, e l'ultimo è geek disfunzionale. Ai. e lì veramente effettivamente uno che risponde sì a tutte queste domande non può che essere disfunzionale. Daniela, lo farai il test anche tu? Quanto ci hai messo? Secondo me non c'è bisogno che tu lo faccia, tu sei geek dentro. Quanto ci hai messo? Ma ci avrò messo 3 minuti, 4 minuti. Ok, allora posso fare. Si può fare. Si può fare. Grazie a tutti per l'ascolto e per la pazienza soprattutto. Forse a giovedì prossimo. A presto. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.